cos'è quest'estate. Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Laura Bettini, ben ritrovati per questa nuova settimana insieme a Ma cos'è quest'estate. In assistenza oggi c'è Miriam Lucchetti, in regia c'è Peter Bescapè e in collegamento c'è già il nostro primo ospite, con il quale parleremo di cosa? Parleremo di aggressioni sugli autobus. Lui in particolare si concentrerà su Roma, ma vi faccio un piccolo excursus prima di salutarlo. Ce ne sono state diverse in giro per l'Italia in questo ultimo periodo, una in Romagna ad esempio, leggiamo: follia a Napoli, troppe persone sul bus, aggredito un conducente della NM. Poi dopo questa è Roma, aggressioni sugli autobus, gli autisti ATAC salgono sul ring, si metta la mascherina, pugni all'autista del bus, questo è accaduto a Crema e poi ancora a Savona vediamo, e poi altri a Ivrea, quindi un po' dappertutto. Lorenzo De Cicco è un cronista, giornalista del Messaggero, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Lorenzo, senti, come va a Roma? Perché a Roma ne ho contate più, ovviamente, la città è grande, ce ne sono state diverse. Quali sono state le ragioni più diffuse di queste aggressioni? Ma diciamo che a Roma il problema delle aggressioni sugli autobus era un problema, insomma, che riguardava anche l'era pre-Covid. Esatto, forse il Covid ha acuito questa emergenza? Eh sì, perché appunto bisogna rispettare alcune regole, la distanza interpersonale, c'è un tetto che a Roma è del 60% della capienza del bus, per proprio appunto per garantire un minimo di distanziamento, c'è l'obbligo naturalmente di indossare la mascherina, tanti passeggeri non lo fanno e a volte diciamo il clima si surriscalda, insomma, non solo per l'APA, e non tutti sono educati e rispettano oppure diciamo vanno incontro a quello che il conducente dice. Va detto che non tutti gli autisti si prendono la briga di ritarguire i passeggeri quando sgarrano, qualcuno invece con senso del dovere e anche diciamo probabilmente consapevole dei rischi che ci sono lo fa, e a volte finisce male. Ecco perché alcuni sindacalisti hanno organizzato dei corsi, diciamo, di arti marziali, che è un'iniziativa in realtà era partita prima, diciamo, del lockdown, ma che appunto si è resa ancora più necessaria secondo loro, e l'abbiamo raccontata qualche giorno fa, insomma, con i conducenti. Esatto, ci avete dato un po' il gancio per questa puntata, per questa prima parte della nostra trasmissione. Esattamente, mettiamola così, però noi non ci siamo picchiati, ci siamo solo parlati. Arriviamo anche alla questione appunto dei corsi di autodifesa, che poi sono soprattutto corsi appunto che aiutano a smorzare, insomma, no? Le cariche di aggressività che si registrano. Sicuramente, allora, tra un istante facciamo tutto perché abbiamo la viabilità e quindi riusciamo a sentire prima la viabilità e poi ci sono già in collegamento tutti i nostri ospiti. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Promo 24. Chi ha un libretto smart adesso può rendere i propri risparmi dei super risparmi, attivando online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. Chi non ha un libretto smart può aprirlo, attivare l'offerta solo online da app BancoPosta e Poste.it, e a scadenza riceverà un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. I buoni e i libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Ma cos'è quest'estate? E ci ha raggiunto in collegamento anche Maria Teresa De Benedictis, segretaria nazionale di FILT CGL. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevamo sapere intanto se è una questione più io ho letto tanti titoli di giornale e sappiamo che a Roma la situazione è un po' più complicata, ma è molto diffuso questo allarme quest'estate in particolare, o è sempre un po' così? Guardi, il fenomeno delle aggressioni era già allarmante nei dati prima dell'emergenza sanitaria. con l'emergenza sanitaria i dati sono diventati ancora più importanti, e questo desta molta preoccupazione non solo nel sindacato, ma dovrebbe destare preoccupazione a tutti i livelli, per i dati che ci vengono presentati. Quindi un po' come nei pronto soccorso, come in tante altre situazioni, il tasso di aggressività c'è ed è aumentato negli ultimi tempi, non solo adesso. Sì, esattamente. Il problema delle aggressioni al personale è un problema che stiamo affrontando e continuiamo ad affrontare, soprattutto nella modifica dell'approccio al problema. Cioè, non si può pensare di parlare di aggressioni solo perché legate all'attualità e all'emotività dell'evento verificatosi. Cioè, bisogna intervenire in maniera sistemica. Noi abbiamo le nostre proposte, le abbiamo anche presentate in sede di commissione di garanzia sugli scioperi nell'ultimo incontro. E noi chiediamo che queste proposte vadano avanti e che vengano assolutamente accolte in un tavolo interministeriale. Ma che tipo di proposte avete avanzato, per avere un'idea? Sì, noi abbiamo chiesto che si faccia una mappatura delle linee a rischio negli orari più sensibili, l'installazione a bordo di mezzi di telecamere di sorveglianza a circuito aperto collegate con le forze dell'ordine, la protezione del posto guida del conducente, l'organizzazione di un flusso di informazioni, di un miglior flusso di informazioni tra azienda, autista, per appunto monitorare il fenomeno, quindi monitoraggio del fenomeno sia quali quantitativo, proprio per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione attuate, così come anche, appunto, dicevo prima, attivare questo tavolo interministeriale tra Ministero dell'Interno e Ministero dei Trasporti per inasprire le sanzioni per gli aggressori, ma soprattutto per lavorare molto più sulle misure di prevenzione. Non c'è l'autodifesa come adesso si sta proponendo all'interno dell'ATAC, però potrebbe essere un'idea almeno sul parare la situazione contingente. Guardi, io non penso che l'autodifesa possa essere un deterrente rispetto al fenomeno. Sicuramente può provare a dare un'idea del fatto che gli autisti non ne possono più, questo sicuramente, però le misure da mettere in campo noi le abbiamo chiare, le abbiamo più volte rappresentate anche alle istituzioni, ci sono stati tavoli in prefettura in quasi tutte le città dove ci sono state aggressioni, dove sono state rimarcate queste azioni, quindi noi chiediamo che si faccia presto e soprattutto che ci si sieda al tavolo per provare a affrontare una volta per tutte questo fenomeno. Allora, a questo punto comunque vorrei sentire come si svolgono, che cosa si insegna in queste lezioni che vengono fatte per gli autisti specificamente dell'ATAC, quindi stiamo parlando specificamente, ripeto, di Roma. Abbiamo in collegamento Marcel Zavagnin, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Che è responsabile della palestra Eagle Fitness e Wellness di Roma, insegnante di arti marziali. Intanto, che cosa specificamente insegnate a questi autisti che arriveranno a lezione da settembre, vero? Sì, dovremmo cominciare a settembre. Allora, io sono presidente, direttore tecnico di un'associazione sportiva dilettantistica, si chiama Muay Thai Connection, che opera a Roma da oltre 25 anni. E insegniamo tutto quello che è vicino alla Muay Thai, perciò la Muay Thai sportiva, tradizionale, antica, nelle varie forme, anche come autodifesa. E lavoriamo alla palestra Eagle da molti anni e lì dovremo partire con questo primo esperimento da settembre, adesso vedremo come si Muay Thai, che è un'arte marziale thailandese? È un'arte marziale thailandese, secolare, che oggi, nell'ultimo secolo ha assunto un carattere più sportivo, perciò molto più vicino a quello che è una forma di box, però dietro di questo c'è tutto un discorso tradizionale di autodifesa. Immagino che nel caso dei corsi specifici per gli autisti sarà più per difendersi, no? Che è altro, quindi... Esatto. Smorzare l'attacco eventuale. Esatto. Noi come associazione non abbiamo mai sviluppato un discorso saltuario di stage, di incontri, ma preferiamo un percorso che viene sviluppato nei mesi, perché oltre a insegnare delle tecniche cerchiamo di preparare anche una persona da un punto di vista psicofisico a un eventuale attacco, un'eventuale minaccia. questo, diciamo. Ne avete già avuto qualche contatto con qualche autista? Insomma, avete cominciato a un po' relazionare? Stiamo cominciando a avere degli incontri. Adesso il discorso Covid e anche un po' il discorso di fine estate ci blocca un po', però abbiamo avuto degli incontri adesso nelle ultime due settimane. Cercheremo di riprendervi subito a inizio settembre. Ma ci vuole una particolare preparazione sportiva, perché insomma l'immaginario, l'autista di solito non è uno sportivissimo, ne parla più che farne lo sport. Esatto, però secondo la nostra preparazione, l'esperienza ci insegna che preparare delle persone in maniera saltuaria solamente da un punto di vista virtuale può recare più danni che benefici, perciò cerchiamo di intraprendere un percorso dove si sviluppa l'individuo attraverso un corso costante sia a livello fisico che anche mentale, perché poi di fronte a una minaccia vera non sperimentata in palestra si può andare incontro a panico, a situazioni che possono degenerare. È tutto molto diverso, è tutto, esatto, certamente. Esatto. Lorenzo. Non vendiamo dei prodotti autodifesa singoli lasciati lì, ma cerchiamo di prendere una persona nei mesi. Ho capito. Portando avanti un percorso un po' più serio. Lorenzo De Cicco, io giornalista del Messaggero, lo ricordo a chi si fosse collegato dopo, ho visto alcuni video, tu sei stato in palestra a vedere un po'. Io, diciamo, al primo allenamento, appunto, come dicevi tu, non erano tutti allenatissimi e pronti sul ring, però insomma sono d'accordo con quello che diceva la sindacalista prima, nel senso che ovviamente non è sicuramente questo un deterrente, diciamo, nel senso che se io passeggero che non rispetta le regole, penso che c'è in cabina di guida l'autista che ha fatto la boxe thailandese, diciamo, non è detto che allora per quello sono più ligio alle regole del Covid. È un'ultima difesa, un'estrema difesa davanti a una situazione che evidentemente espone i conducenti dell'ATAC a queste aggressioni e all'idea di non avere altre forme di protezione. Si era parlato in passato di guardie giurate a bordo dei bus, o almeno delle linee, delle tratte più pericolose, c'era stato anche uno schema d'appalto che poi non è andato in porto. E quindi oggi, diciamo, prevale l'idea della sicurezza fai da te, con tutti i rischi poi questo ovviamente può comportare se deborda un po'. L'altra idea che sta circolando è quella dello sperto e peperoncino, sempre in autonomia dall'azienda, perché non sono iniziative dell'ATAC ufficiali, ma appunto delle associazioni degli autisti in autonomia, la stessa palestra dove del nuovo salario dove hanno iniziato ad allenarsi, dove sono stato la settimana scorsa, ha deciso di regalare un kit di spray al peperoncino ai conducenti che si stanno iscrivendo ai vari corsi di box thailandese. Un'altra risposta, diciamo, sempre appunto di sicurezza fai da te, in assenza al momento di decisioni ufficiali. Aziendali, certo, ma in realtà dovrebbero forse essere delle misure che si possono condividere a livello nazionale. Maria Teresa De Benedictis, c'è qualcuno in Italia che ha proposto o sta portando avanti qualcosa che potrebbe essere, no, esportato nel resto d'Italia e che non sia questa soluzione estrema, perché è chiaro che uno davanti a un'aggressione in qualche maniera deve reagire, però sarebbe meglio non arrivarci a quel punto. Sì, quello che dicevo prima, insomma, ad oggi non c'è una banca dati che monitora il fenomeno e che in qualche modo verifica l'efficacia delle misure di prevenzione. Ecco, non c'è un approccio sistemico al problema. Purtroppo, diciamo, le aziende si affannano a tutelare il patrimonio aziendale, ma sempre meno riconoscono le risorse umane come valore essenziale di un'azienda e quindi devono farsi parte attiva nella tutela dei lavoratori, sia diciamo il post trauma attraverso un sostegno psicologico ma soprattutto legale, ma ancor più nelle misure di prevenzione. Esatto, quindi non c'è però un benchmark, un qualcosa in Italia che dici questo l'abbiamo, è convincente, al di là del fatto che non sia istituita una banca dati. Lei non ha presente una qualche idea geniale? No, ma le cose che dicevo prima, diciamo, sono state sperimentate da qualche parte e hanno sortito degli effetti positivi. Diciamo, se penso che il Ministero dei Trasporti solo di recente ha stanziato delle risorse per equipaggiare gli autobus nuovi da acquistare in misure anti-aggressioni. Quindi significa che la percezione del problema c'è, è forte, ma ci siamo mossi con molto ritardo. Con una lentezza che quindi non consente di fronteggiare il quotidiano, direi, a questo punto. Esatto. Possiamo dire così. Lorenzo, certo che la questione dei rapporti tra i passeggeri ATAC, scendendo di nuovo nello specifico di Roma, e proprio l'ATAC stessa, è ovviamente una situazione un po' particolare, no? Perché ci sono stati molti, ci sono mille motivi di frizione, direi. Beh sì, la situazione, cioè, dei trasporti urbani è un po' particolare di Roma, ecco. Da tutti, insomma, tra appunto guasti, centinaia di guasti ogni giorno, bus che vanno a fuoco, eccetera. Questo è sicuramente. Ma vedevo soltanto anche gli ultimi tuoi aspetto. Articoli, sì. I guasti per non guidare, no, qualcuno ne approfitta, insomma. Sì, 150 conducenti sono stati sospesi nell'ultimo anno per aver inventato, secondo l'azienda, dei guasti. C'è stata anche una sentenza del Tribunale del Lavoro che ha dato ragione all'ATAC che abbiamo raccontato. È ovvio che, diciamo, sul fronte delle aggressioni, l'Italpol, che è la società di vigilanza ingaggiata dall'ATAC proprio appunto per controllare le principali fermate, ha contato nell'ultimo mese 40 episodi di aggressione, quindi oltre un episodio al giorno, senza contare, diciamo, magari quelle, diciamo, aggressioni verbali che non sono neanche annotate, ma che, insomma, possono poi sempre, se le cose peggiorano, scaturire in nel contatto fisico. Se questa è la situazione adesso, che è giugno, luglio, insomma, stiamo parlando appunto dell'ultimo mese e mezzo, quando un po' la città si è svuotata, siamo in vacanza, eccetera, pensiamo cosa può succedere a settembre, quando appunto riapriranno le scuole, tanti uffici che sono ancora in modalità smart working riapriranno, e quindi i mezzi pubblici saranno ancora più mezzi pubblici che dovrebbero ancora essere sottoposti alle misure anti-Covid, e quindi saranno, insomma, le persone poche a bordo, i mezzi, se non sono sufficienti, diventerà un disastro totale. I mezzi a Roma, diciamo, non erano sufficienti nemmeno prima, nel senso che l'ATAC non riusciva a rispettare il 100% del servizio mai. Mediamente era intorno al 90% nelle giornate fortunate, quindi, diciamo, figuriamoci cosa può succedere dopo. Va detto che il comune un po' si è organizzato, ha noleggiato una settantina di nuovi bus, però, insomma, per quello che può succedere a settembre, diciamo, purtroppo è abbastanza prevedibile, insomma, cioè bus ancora più stracolmi del solito, con appunto rischi anche in questo caso anche per i conducenti, evidentemente, se la situazione, diciamo, già oggi ha fatto registrare episodi di aggressione. Sicuramente. Io vi devo ringraziare, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Maria Teresa De Benedictis, Filt CGL, Lorenzo De Cicco, l'avete appena sentito, collega del Messaggero, e in collegamento Marcel Zavagnin, anche responsabile appunto della palestra nella quale si alleneranno i conducenti dell'ATAC. Una piccola pausa, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Ma cos'è quest'estate? Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Allora, abbiamo parlato di aggressioni sugli autobus, e diversi sono i messaggi che sono arrivati su questo tema, direi un po' tutti contrari all'idea che gli autisti siano addestrati a rispondere a queste aggressioni in una palestra in cui si insegna una arte marziale, sostanzialmente. Contraria anche l'idea del peperoncino, vedo che, insomma, ma che casino succederebbe se venisse usato uno spray al peperoncino dentro a un autobus, mi auguro eventualmente non dentro ma fuori, certo, sicuramente sarebbe l'estrema ratio, insomma, da evitare il più possibile. C'è una questione anche di educazione, insomma, di chi ha qualcosa da dire contro l'autista, ecco, che non passi subito alle vie di fatto, perché l'autista dovrebbe eventualmente solo rispondere con le tecniche che gli vengono insegnate, non certo aggredire per primo. Cambiamo argomento, comunque 349-238-6666 è sempre il numero verde per i messaggi, se riusciamo, volendo c'è anche l'800-24-00-24 se volete mettervi direttamente in comunicazione con noi con una telefonata. Cambiamo argomento, parliamo non propriamente del nuovo ponte di Genova che verrà inaugurato oggi, lo sappiamo, dalle 18.30 lo seguiremo questa inaugurazione qui su Radio 24, ma di un tema molto vicino, del consorzio Fabre per la sicurezza sui viadotti, un consorzio che è stato stipulato tra l'Enea, i Politecnici di Torino e Milano, le Università di Pisa, Padova, Perugia, Camerino, Messina, Sapienza di Roma e della Campania Luigi Vanvitelli, un consorzio che vuol mettere in campo gli esperti più qualificati e le tecnologie più avanzate, leggiamo, per monitorare lo stato di salute delle infrastrutture stradali del nostro paese. Una questione spinosa, una questione quanto mai necessaria, ce l'ha raccontato la cronaca non solo di Genova ma di diverse altre infrastrutture italiane. Parliamo di questo con Paolo Clemente, dirigente di ricerca Enea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il consorzio è nato. Adesso i prossimi passi, vorremmo un po' capire come vi muoverete. Di lavoro non manca, questo è poco ma sicuro. No, certamente non mancherà il lavoro. Il consorzio è nato, è stato appena firmato l'atto costitutivo, è stato fatto questo all'Università di Pisa una decina di giorni fa e adesso stiamo facendo i primi passi, proprio organizzando gli aspetti amministrativi, diciamo, essenzialmente, ma siamo già pronti per scendere sul campo. Come diceva lei, c'è tanto da fare. Lei ha nominato innanzitutto le 9 università più l'Enea che sono i soci fondatori, ma in realtà è auspicabile che il consorzio, e siamo già tanti, per fondare un consorzio in 10 siamo già tanti, ci auguriamo però che altre università e altri enti che certo si uniscono a noi a rappresentare le tante scuole di ponti italiane che sono state sempre storicamente un'eccellenza in Europa e nel mondo. Quindi in sostanza quindi voi vi mettete quasi, diciamo, tra virgolette, a disposizione per fare una serie di indagini e di controlli con l'esperienza che avete. Noi siamo a disposizione, come ha detto lei, delle strutture pubbliche a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma anche quindi delle altre strutture pubbliche che gestiscono strade e autostrade, anche i concessionari che gestiscono appunto gran parte della rete autostradale italiana, per quello che serve. Diciamo che al momento quello che serve è un check preliminare per verificare lo stato di affidabilità, così si chiama, secondo le linee guida che sono state emanate dal Ministero, anche questo va ricordato, lo scorso aprile, quindi anche questa è una notizia relativamente fresca. Non avevamo fino a un paio di mesi fa, tre mesi fa, dei riferimenti normativi, adesso ci sono, ovviamente possono essere migliorati, sicuramente nel tempo saranno integrati in base alle esperienze che si faranno, però il primo passo sarà proprio quello di applicare le nuove linee guida ai ponti esistenti, e che sono tantissimi, sono diverse decine di migliaia in Italia i ponti esistenti, con vari gestori, con vari proprietari. Sì, sulla quantità di lavoro siamo tutti d'accordo, tra l'altro ce ne sono anche molti che hanno già avuto, no? Hanno già subito dei crolli, quindi lì c'è da mettere mano proprio sulla parte poi dopo di o ricostruzione o messa in sicurezza, non so, che ciascuno ha i suoi livelli, ma appunto voi vi mettete a disposizione, avete le competenze, avete le linee guida. A questo punto deve esserci una chiamata o state già, no? Avete già dei contatti già... per... Siamo già in contatti sia con il Ministero sia con diversi gestori. È chiaro che chi gestisce deve chiamare e deve decidere come operare. Guardi, abbiamo un piano viario oramai datato. L'Italia è stata ricostruita nel secondo dopoguerra e gran parte delle nostre infrastrutture oramai viaggia tra i 50 e i 70 anni di vita. Questo non vuol dire che bisogna rifare tutto, però bisogna fare un check. Soprattutto bisogna imparare a fare manutenzione in tempo, prima che il degrado, eventuali danneggiamenti diventino talmente gravi da poi da non rendere più possibile un recupero o un ripristino delle strutture. Quindi ecco, poi si arriva all'ovvio, all'ovvia scelta del demolire e ricostruire, oppure alla disgrazia del ponte che crolla senza grossi preavvisi. Purtroppo ne abbiamo avuti tanti casi in Italia di questo tipo negli ultimi anni, come diceva lei. Quello del ponte sul Polcevera di Riccardo Morandi è forse quello più emblematico, che ha fatto più notizia, intanto per il numero di vittime enorme, ma anche per l'importanza e la maestosità dell'opera, che ricordiamo ha segnato un'era del percorso della storia dei ponti in Italia. Certo, sembrava un momento di altissima ingegneria, poi però qualunque altissima ingegneria, se non gli stai senza dietro, non si va avanti. Non può durare nei decenni, ma non dico nei secoli, ma neanche nei decenni, appunto. E dunque, alcune cose ce l'avete, quindi alcuni accordi, alcune ce l'avete già in pista? Diciamo di sì. Che aree del paese, giusto, si può dire, oppure è ancora troppo presto? Diciamo, è abbastanza diffusa la cosa, riguarda prevalentemente la parte autostrade, insomma, però ci stiamo lavorando. Quindi voi farete questi controlli, poi darete il risultato, no? Daremo il nostro parere, ripeto, tenendo conto di quello che stabiliscono le linee guida, di quello che si chiama un livello di attenzione, e quindi che appunto più alto più significa che il pericolo è il rischio è elevato, e quindi sulla base di questo poi si decide come proseguire, se appunto si... A voi resta l'insistenza, però vi dice: io ho visto che c'è questo problema, dopodiché però non siete voi ovviamente a poter risolvere quel problema. Certamente non potremo dare delle indicazioni su come risolverlo, ma certamente non andremo a togliere lavoro né ai professionisti né alle imprese, assolutamente. No, ma sai qual è il problema? Dovranno operare in pratica. Sì, no, io volevo così sottolineare che su anche ponti che hanno subito danni, non voglio arrivare fino appunto al Polcevera, ma c'erano delle spie, no? C'erano delle che si erano accese. Il problema è poi dopo cogliere l'indicazione del tecnico. Guardi, che ti dice c'è un problema. Infatti noi batteremo molto sul monitoraggio, che oggi rende possibile prevenire. Il monitoraggio ci consente di seguire un'opera e di valutare se ci sono dei sintomi che possono far accendere, ecco, delle lampadine, dei warning, delle attenzioni, e quindi intervenire in una situazione ancora tranquilla, senza ovviamente pensare a grandi lavori. Molti dei crolli avvenuti probabilmente potevano essere prevenuti con il monitoraggio delle opere stesse, perché sia dal come vibra un ponte, sia dal fatto che ci possono essere spostamenti delle pile o delle spalle nel tempo, oggi sono valutabili anche con tecniche non eccessivamente costose, quindi in realtà si va verso il monitoraggio, che ci consente un controllo, ripeto, continuo delle opere, in modo da intervenire in tempo utile. Ho visto che oltre alla rete di università e di esperti che voi mettete in questo consorzio, c'è anche una parte che riguarda l'EISAC.it, primo centro in Italia e in Europa per la protezione delle infrastrutture strategiche, nato dalla collaborazione dell'Agenzia con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E lì si entra tutto in una parte molto tecnologicizzata, diciamo così, con sensori, analisi del rischio, sistemi di previsione meteoclimatica addirittura. È interessante questo passaggio, perché si riuniscono una serie di competenze e di agenzie diverse del nostro territorio, del nostro paese. Sì, guardi, questo è un accordo di programma nato da Enea e NGV un paio di anni fa, e che già sta dando i suoi frutti. È un po' più ad ampio spettro, nel senso che riguarda tutte le infrastrutture, pensiamo anche alle reti di distribuzione dell'energia, del gas e così via, e quindi tutte quelle infrastrutture necessarie per la vita di un paese, infrastrutture critiche. L'idea è di andare a proteggere queste infrastrutture attraverso questi controlli? L'idea è di fornire un supporto a chi deve gestirle e decidere per appunto prendere decisioni sempre in tempo utile e per la salvaguardia di queste infrastrutture. Enea e NGV sono, mi permetto di dire, due tiri all'occhiello del, del patrimonio degli enti pubblici italiani che sono, si mettono insieme, ma sono sempre stati insieme, per collaborare sugli aspetti, ciascuno per le proprie specificità, ma insomma su, su aspetti di interesse per questo paese. Beh, la protezione delle infrastrutture strategiche è un tema che dovrebbe essere al centro di qualunque politica. Adesso abbiamo vissuto varie emergenze. Se tu non riesci a proteggere quello che, è, che tiene in piedi il paese, sei fuori, sei distrutto fondamentalmente, no? Beh, certamente quindi... i collegamenti al primo posto, ma anche appunto ripeto, le reti infrastrutturali in generale, ma pensiamo anche agli edifici strategici, quelli cioè dai quali bisogna gestire il paese anche nelle situazioni di emergenza. È chiaro, sono strutture che devono dare garanzie di sicurezza nettamente al di sopra delle costruzioni ordinarie. Esattamente, esattamente. Altrimenti appunto il paese viene isolato sostanzialmente da, da se stesso, dai centri nevralgici. Non può funzionare. Non può funzionare. Non potremmo passare nessuna, nessuna emergenza se non avessimo acqua, luce, infrastrutture digitali, penso, no? Quindi ovviamente lì bisogna avere una cautela particolare. Io la ringrazio molto, Paolo Clemente, dirigente di ricerca Enea. Allora, buon lavoro, ne avete tanto e ci fa piacere insomma che un consorzio che riunisce le eccellenze del nostro paese si sia riunito per monitorare le infrastrutture viarie, ma non solo. Buon lavoro, alla prossima. Grazie a te. Quale giorno migliore per parlare del potere della gratitudine? Il potere della gratitudine è il titolo di un volume che troverete con il Sole 24 Ore, scritto da Andrea Vitali, coordinato diciamo così dalla nostra Nicoletta Carbone, con interventi anche di Piero Barbanti e Gwendalina Graffigna, due docenti, professori che si sono appunto spesi in questo volume per scrivere di gratitudine. Cosa è successo? Qui è successo questo, che Nicoletta Carbone nel corso della sua trasmissione, delle sue trasmissioni qui su Radio 24, ha raccolto tra gli ascoltatori storie di gratitudine che poi sono state rielaborate da un grande scrittore che è Andrea Vitali. Buongiorno. Buongiorno. Che è in collegamento con noi. E quindi abbiamo parlato di ricostruzione del Ponte di Genova. Questo libro raccoglie storie di gratitudine da lei rielaborate appunto, che riguardano il periodo Covid, ma insomma mi sembrava che fosse un giorno buono per parlare di gratitudine nei confronti di chi si spende, no? Di chi si dà da fare per gli altri. Sì. Andrea Vitali, come sono state queste storie degli ascoltatori su cui lei poi dopo si è appunto scritto dei racconti? Sì, sono storie di vario genere, insomma, a volte proprio dei fulmini a ciel sereno, delle brevissime righe, a volte storie più complesse che hanno comunque tracciato un panorama assai variabile di come viene intesa la gratitudine. Credo che i racconti che ne sono derivati riescano a dare appunto questa idea di un panorama estremamente variegato. La gratitudine è un sentimento che nasce dalle più varie situazioni, e i radioascoltatori che hanno risposto all'appello di Nicoletta Carbone mi hanno dato proprio questa sensazione. È un taglio molto personale, sì, a me ha colpito ad esempio quello che ringrazia l'amica che gli ha consentito di lasciare la fidanzata, in sostanza. Vabbè, sì, è una gratitudine, però insomma, una gratitudine un po' particolare, è vero, ognuno c'ha il suo taglio. Sì, in effetti è vero, però è anche vero, diciamo, che quel periodo di confinamento che abbiamo subito bene o male tutti è servito sotto vari aspetti a rivalutare certe cose, certi rapporti, come nell'occasione, nella situazione che lei ha citato, e a guardare meglio quegli aspetti, magari quelle le minime cose che talvolta possono sfuggire e che invece possono essere proprio il momento in cui uno rivaluta certi aspetti della vita, rivaluta i rapporti interpersonali, rivaluta tante cosine che con la fretta tendono magari a scappare. Eh sì, sicuramente. Io ricordo che in quel periodo di lockdown, nella trasmissione Si può fare, avevamo avuto un ospite, un ascoltatore che ci diceva che lui approfittava di questi giorni di chiusura per telefonare a soprattutto ai parenti, ma comunque alle persone con le quali aveva litigato, per mettere a posto le cose, diciamo così. Cioè, adesso ho il tempo e mi dedico a questa attività. Un po' particolare, devo dire, però. Se posso interromperla, sì. Scusi, devo dire che si è impiegato 2 mesi per fare pace con tutti, di aver proprio litigato parecchio. Magari, non lo so, ci aveva da mettere a posto, c'aveva molti scheletri nell'armadio, non lo so, mettiamola così. Vabbè, comunque questo volume, che è veramente molto interessante, appunto dà uno spaccato un po' come noi intendiamo la gratitudine, ma c'è anche da riflettere, perché appunto ci sono anche pagine di Barbanti, che è un professore di neurologia all'Università Telematica San Raffaele di Roma. Insomma, ci sono vari no, punti di vista più di riflessione più generale. Ecco, lo trovate in allegato al Sole 24 Ore e Andrea Vitali ha rielaborato queste storie. Ma com'è andata? Arrivava la traccia dell'ascoltatore e poi lei ci pensava e riscriveva un tutto, oppure... Com'era? No, esattamente così, arrivavano di giorno in giorno le tracce dei radioascoltatori e tra le tante, diciamo, ho scelto quelle che mi hanno colpito di più, diciamo le più divertenti, le più strane. Ricordo ad esempio la traccia inviata dal radioascoltatore che era grato al professore che gli ha insegnato la consecutio tempo, dunque era una cosa insomma abbastanza particolare, ed altre invece molto più interessanti che ho condiviso, anzi una in assoluto, quella che ho condiviso di più è quella del radioascoltatore che uscendo alla fine, diciamo, del confinamento si è trovato di fronte a un mondo quasi rinnovato, come se fosse di fronte a un'imitazione della natura e non a quella stessa natura. Quella è una sensazione che ho avuto anch'io guardando dalla finestra di casa mia, diciamo, in quel periodo, come se la natura si fosse ripulita e quindi apparisse ai nostri occhi in maniera nuova, rinnovata, diciamo, padrona di se stessa, come dovrebbe sempre essere. Ma si era ripulita, secondo lei, perché era effettivamente vuota dalle persone o perché ci mancava e quindi ci sembrava tutto nuovo, no? Un po' come tornare nella casa del mare. Che uno sì, dice. Esattamente, ma è una combinazione di entrambe le cose. Innanzitutto c'è l'assenza di esseri umani che percorrevano strade, sentieri, contrade, eccetera, ma anche l'assenza, diciamo, di quelle sostanze che ovviamente inquinano aria e acqua. Io devo dire che un lago così, così perfetto, così bello, così azzurro non l'ho mai visto, benché viva da anni e anni su queste rive. Un effetto legato all'assenza, diciamo, di imbarcazioni, battelli, traghetti, niente. E questo, diciamo, questa luminosità si è anche ripercorsa proprio sulla luce che avevamo intorno, sul colore delle piante, dei fiori, eccetera. Non credo che sia solo una suggestione, ma un'impressione che penso di poter condividere con molte persone che hanno osservato questo fenomeno. Probabilmente sì. Ora mi colpisce che sia lei con il suo lago che conosce così bene, insomma, aver trovato addirittura un qualcosa di nuovo in questo lago che ci ha così descritto, no? Che sembra che non ci sia un angolo che lei non ha presente di questo lago. però ci sta. Invece l'ago offre sempre sorprese, diciamo, e questa è una delle tante. A proposito di laghi e sorprese, mi ha incuriosito questo volume appena uscito, I luoghi sono reali. Andrea Vitali racconta Bellano attraverso i suoi romanzi di maggior successo e le immagini di Carlo Borlenghi. E molto bello e forse anche molto utile, lo possiamo usare un po' come guida, visto che quest'anno siamo tutti a cercare mete italiane, direi. Beh, sicuramente è una guida, perché il volume che lei ha citato offre anche una guida vera e propria, insomma, con raccontando quelle che sono le bellezze del luogo. I luoghi sono effettivamente reali, perché io non ho mai reinventato niente dal punto di vista dei luoghi, ho sempre utilizzato luoghi che ho conosciuto o personalmente o attraverso la storia che ha caratterizzato, diciamo, questo paese. Per cui l'eventuale turista che vuole fare un giretto a Bellano, con in mano questo libro può tranquillamente orientarsi senza paura di perdersi, anche se perdersi in un paese così piccolo è abbastanza problematico. In realtà dovrebbe ritrovarsi, perché dovrebbe ritrovarsi, no? E tra i romanzi e la realtà si ritrova, secondo me, con questo volume in mano. Sì, in effetti sì, perché di fronte, che ne so, al cotonificio Cantone, oppure al luogo dove una volta era la caserma dei Carabinieri, se ha avuto l'avventura di leggere qualcuna delle mie storie può fare questa fusione, diciamo, tra la realtà che ha sotto gli occhi e l'immaginario della storia che eventualmente ha letto, e quindi vivere un'esperienza duplice, camminando come se fosse il maresciallo Maccadò o uno dei tanti altri personaggi che mi è capitato di raccontare. Grazie molto Andrea Vitali per essere stato con noi, grazie anche per le storie, appunto, di gratitudine che ha raccolto in Il potere della gratitudine, che trovate con Il Sole 24 Ore, ed ovviamente per questo volume I luoghi sono reali, di cui abbiamo appena parlato. Abbiamo Alessandro da Genova, riusciamo a sentirlo prima di salutarci per GR24. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci voleva parlare di mezzi pubblici, vero? Sì, rifacendomi a quello che ho sentito prima, che si parlava di istruire attraverso arti marziali. Sì. Ma a me sembra sinceramente irreale, cioè surreale più che altro, perché io lo dico da ex autista di autobus. Secondo me la questione va presa da un punto di vista legale unicamente, perché quando una persona di solito minaccia e aggredisce un conducente, commette anche un altro reato implicito, che è quello dell'interruzione del servizio pubblico, tra l'altro, e solitamente. Quindi queste persone dovrebbero essere denunciate, si dovrebbe configurare un reato di tipo oltraggio e minacce per cosa a pubblico ufficiale, con quello che si configura con i vigili, con i carabinieri, con i poliziotti, e voglio dire, e queste persone, secondo me, c'è una passare... Sì, no, mi pare di aver capito che ci sia però una difficoltà a fare intervenire tempestivamente le forze dell'ordine in queste situazioni, almeno per quello che riguarda Roma, non so nella sua esperienza se è così. Sì, diciamo che comunque questo penso che sia difficoltoso in qualsiasi ambito, anche perché se no ci ce ne vorrebbero chissà quante forze dell'ordine, però una volta che queste persone vengano come dire, identificate, generalizzate, devono secondo me subire un procedimento penale veloce, con una condanna relativamente breve ma sicura, senso una settimana ad esempio di prigione, sociale, che rimanga anche sui documenti, voglio dire, e forse magari smetterebbero di aggredire e comunque avrebbero. Alessandro, anche... la devo salutare perché c'è GR24, ma la ringraziamo per averci dato il suo parere anche da esperto. GR24, torniamo subito dopo, parliamo di Marte e di conquista dello spazio. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Ma cos'è quest'estate? It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Per Marte, potremmo dire. La NASA ha lanciato il 30 luglio scorso la missione Marte 2020, Mars 2020. È stata la terza diretta sul pianeta rosso negli ultimi 10 giorni, dopo quelle di Emirati Arabi e Cina. Questo è il tema dal quale, la questione, la notizia dalla quale partiamo per la prossima conversazione con Luca Perri, astrofisico, autore tra l'altro di Astrobufale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Molto piacere di sentirla. E Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes, buongiorno anche a lei, è un piacere. Buongiorno, buongiorno. Oltre a essere consigliere scientifico di Limes, è anche consulente, consigliere di diverse istituzioni e anche, ricordo, l'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi siamo perfettamente, diciamo, centrati sul tema spazio. Prima curiosità, direi, per Luca Perri è un po' questa. Cioè, tutti insieme devono partire per andare su Marte, lo so, su Marte. Lo so che sono programmi che si sviluppano, no, nel tempo, ma la coincidenza che tutti in questi 10 giorni, cosa c'era? Una coincidenza astrale precisa, giusta per partire? Sì, allora l'anno marziano, cioè il tempo che Marte impiega a orbitare attorno al Sole, è differente da quello terrestre, è circa il doppio. Diciamo che un anno marziano sono circa 2 anni terrestri, e quindi in realtà Marte e la Terra si trovano sempre a distanze differenti fra loro. Si cerca, nel caso di queste missioni, di aspettare il momento più propizio, e quindi, per risparmiare ad esempio sul carburante ma anche sul tempo di viaggio, si cerca di fare in modo che la sonda venga lanciata quando Marte è particolarmente vicino alla Terra. Di solito questo avviene con finestre di lancio di poco superiore ogni 2 anni, diciamo un tempo ogni 2 anni, quindi se non avessero lanciato adesso nel 2020 bisognava aspettare il 2022, e quindi si sono lanciate 3 missioni tutte assieme nel giro di 10 giorni. Quindi 3 missioni tutte assieme, potrebbero arrivare tutte assieme, e che cosa fare là tutte insieme, oppure magari qualcuno allora non ci arriva? No, allora intanto, esatto, diciamo che il tasso di fallimenti di missioni marziani nella storia umana è circa il 50%, quindi diciamo che speriamo arrivino tutte e tre attorno a febbraio 2021, e in realtà avranno ognuno compiti diversi. Ad esempio la missione degli Emirati Arabi, che è la missione HOPE, punta a studiare il clima marziano lungo un anno marziano, quindi per 2 anni. E sarà la prima vera e propria missione climatica, diciamo, verso Marte. Poi c'è la Tianwen-1, che è la missione cinese, che addirittura sarà una tripla missione: avrà un orbiter, cioè una sonda che orbiterà attorno a Marte, anche qui per studiare dati atmosferici, avrà un lander, quindi una sonda capace di ammartare, termine orribile, ma vabbè, come vogliamo dire, atterrare, allunare, ammartare. E poi ci sarà addirittura un rover, quindi qualcosa capace di spostarsi sulla superficie. E poi c'è la missione di Mars 2020, che avrà addirittura 2 parti. La prima sarà un rover, il successore di Curiosity, che è al momento il rover più complesso mai mandato su Marte. Questo Perseverance prenderà il suo testimone e andrà a cercare effettivamente tracce della vita possibile che si è sviluppata su Marte nei milioni di anni scorsi, raccoglierà dei campioni e lascerà queste provette lungo il percorso, tipo briciole delle fiabe, perché si spera che in futuro un altro rover riesca a raccogliere tutte queste provette e a portarle in una base di lancio su Marte e spararle verso la Terra. E addirittura poi Perseverance si porta dietro un piccolo dimostratore tecnologico, un piccolo elicottero chiamato Ingenuity, che per la prima volta cercherà di volare nell'atmosfera marziana, che è molto rarefatta. Qualora riusciremo a volare con un elicottero, infatti è un dimostratore tecnologico, si aprirà tutta una serie di possibilità incredibili per l'esplorazione futura. Ok, quanto ci vuole andare su Marte? Ci vogliono circa 200 giorni, quindi appunto sono partiti adesso, arriveranno verso febbraio 21 tutte e tre le missioni. Ok, e, ovviamente ciascuno ha lavorato da solo, cioè non è che sì. Non sono collegati tra di loro. No, anche perché diciamo che i programmi spaziali cinesi e americani non possono proprio collaborare, anche legalmente parlando, diciamo, e mentre invece la missione degli Emirati Arabi Uniti è stata particolarmente importante perché l'Agenzia Spaziale degli Emirati Arabi è nata solo 6 anni fa. E attraverso una serie di collaborazioni internazionali in realtà è riuscita a produrre questa sonda Hope. Quindi lì ci sono state più collaborazioni internazionali, mentre poi Cina e Stati Uniti viaggiano proprio su due binari completamente differenti. Alessandro Aresu, negli anni lei ha scritto molto di spazio, gli Emirati Arabi però sono solo 6 anni che sono entrati in questa corsa a Marte, e come mai? Cioè, noi Stati Uniti e Cina ce l'aspettiamo, la Russia per altri versi magari adesso esclusa, ma comunque ce l'aspettiamo perché siamo così, sappiamo che sono interessati. Gli Emirati Arabi in che partita sono? Ma allora, anzitutto si stima, come si diceva, un arrivo nell'orbita di Marte dovrebbe essere per il febbraio 2021. Comunque il 2021 è l'anno in cui gli Emirati celebreranno il 50° anniversario della loro fondazione, quindi c'è una volontà di sottolineare questo traguardo con un momento prestigioso per il paese, che peraltro è una potenza di riferimento nel Golfo anche in ambito militare, quindi gli interessi degli Emirati vanno sia nell'aspetto di prestigio che porta la corsa spaziale in termini di collaborazione e cooperazione con altri paesi, e anche di potenziali spillover che possono esserci nell'ambito militare per i loro interessi nel Mediterraneo allargato. Quindi è stato un investimento importante, peraltro insomma gli Emirati Arabi Uniti dispongono di risorse molto significative, quindi sicuramente avevano la volontà di posizionarsi in questi termini anche per il loro ruolo nel Medio Oriente rispetto agli altri paesi. Poi è stata citata la Russia, non bisogna dimenticare i paesi europei, per esempio proprio su Marte collaborano la Russia con l'agenzia Roscosmos e l'agenzia spaziale europea, anche per loro era previsto un ulteriore lancio sempre nel 2020, ma è stato rinviato al 2022 sia per ragioni tecniche sia per l'incertezza portata dallo scenario Covid-19. Quindi aspettiamo la prossima finestra, insomma, per partire, la finestra, quella del 2022. Del 2022, però insomma io direi che comunque la questione degli Emirati va vista per quello che è, comunque qualcosa di secondario rispetto ai temi della competizione spaziale che sicuramente caratterizzano soprattutto gli Stati Uniti e la Cina all'interno della loro competizione generale, del loro conflitto nell'ambito tecnologico. Ma che senso ha spendere così tanto per andare nello spazio? Io capisco una parte di ricerca, immagino però ci siano anche questioni geopolitiche un po' più pressanti. Allora, per quanto riguarda i sistemi di posizionamento satellitare, il GPS per gli Stati Uniti, Galileo per l'Unione Europea e ora Beidou per la Cina, di cui sono stati completati di recente i satelliti, diciamo la loro importanza è decisiva. L'esercito degli Stati Uniti dipende dal GPS, quindi insomma il mondo in cui viviamo dipende di fatto dal GPS. e dalla sua contestazione, ma tutti gli aspetti di telecomunicazioni legati allo spazio, all'uso satellitare, riguardano la connettività e soprattutto tutti i servizi della connettività, senza i quali non esisterebbero, diciamo, le applicazioni con cui noi ci orientiamo, a partire dalle varie Google Maps. Poi, se portiamo questa discussione più in là nel tempo, ci sono analisti geopolitici statunitensi come George Friedman, che nel descrivere le guerre del prossimo futuro o del futuro remoto pensano realmente che saranno combattute attraverso degli strumenti spaziali, che comunque sono sempre estremamente rilevanti in ambito geopolitico, perché diciamo poter vedere gli altri, vedere la posizione del nemico senza essere visti e in modo sempre più accurato, naturalmente è qualcosa che fornisce un vantaggio straordinario. Quindi noi dobbiamo vedere da un lato questo sviluppo molto rilevante relativo alle comunicazioni e alle applicazioni delle telecomunicazioni, su cui cresce e crescerà sempre di più una nuova economia dello spazio, e dall'altro l'ambito militare e dell'avanzamento tecnologico, che soprattutto per le principali potenze rimane un aspetto di primissimo piano per quanto riguarda l'impresa spaziale. Ma Luca Perri, quindi un po' lo spazio diventa un po' come la Formula 1 per le auto? Cioè io vado lì a sperimentare qualcosa per me nel futuro? Sì, in realtà lo è sempre stato. Noi non dobbiamo dimenticare che una buona fetta della tecnologia che utilizziamo ogni giorno deriva dall'esplorazione spaziale in un modo o nell'altro, ma ovviamente si è parlato di ciò che è satelliti e telecomunicazioni, ma si potrebbe anche andare a guardare cose decisamente più terrene, come le gomme da masticare, oppure le auto ibride utilizzano le celle a combustibile, beh, quelle sono nate per le missioni spaziali, il trapano a batteria, veramente tantissimi oggetti di uso comune sono delle cosiddette ricadute tecnologiche, quindi tecnologie che sono state sviluppate per l'esplorazione spaziale e che poi hanno avuto un utilizzo magari anche imprevisto sulla Terra. Per fare un esempio, le missioni Apollo hanno prodotto da sole oltre 30.000 brevetti di oggetti di uso comune. Ah, però 30.000 addirittura? Sì. Esatto, e di tutti i tipi, direi, a quei 30.000 ci sta dentro di tutto. Assolutamente, assolutamente, veramente si va anche al fatto che i pacemaker derivano dalla miniaturizzazione dei sensori biometrici degli astronauti, arti biocompatibili, la microelettronica, perché all'epoca i computer occupavano intere stanze e era impossibile mandare qualcosa nello spazio di tanto pesante, e quindi la microelettronica è il motivo per cui noi oggi abbiamo i computer portatili, oppure qualcosa di miniaturizzato deriva dall'esplorazione spaziale. Veramente si va in tutti gli ambiti. E invece tutti parliamo delle forze spaziali, forse siamo un po', Alessandro Areso, viziati dalle visioni dei vari Star Wars e compagnia, non pensiamo tutti all'esercito spaziale di cui tanto ha parlato Trump negli ultimi mesi. Ma sì, sicuramente, diciamo, c'è stata anche, se vogliamo, una sovrapposizione tra l'immaginario della costruzione militare spaziale, in particolare dagli Stati Uniti, e l'uscita di film molto rilevanti in quegli anni, in particolare quelli della prima e mai abbastanza rimpianta trilogia di Star Wars, che caratterizzavano proprio l'investimento del... Le piace l'originale a lei, non... piace l'originale, la trilogia originale. Sì, diciamo, L'Impero colpisce ancora, secondo me, uno dei più bei film del genere della storia del cinema, ineguagliabile. E comunque, al di là di questi aspetti, diciamo, la cosiddetta Strategic Defense Initiative dell'amministrazione Reagan negli anni '80, anche dalla stessa amministrazione, veniva chiamata guerre stellari, e poi, diciamo, la sua stessa proposizione ha caratterizzato alcuni elementi della discussione più accesa della guerra fredda. Peraltro non dobbiamo dimenticare che la Russia è rimasta una potenza spaziale rilevante, in particolare prima dell'avvento momento di questa nuova era caratterizzata dalla Crew Dragon prodotta da SpaceX, sì, di Elon Musk, gli Stati Uniti hanno staccato un assegno, mi pare, di circa 3,5 miliardi di dollari alla Federazione Russa nell'ultimo decennio. Immaginiamo anche con i rapporti e le tensioni che vi sono state tra questi attori geopolitici per portare i loro astronauti sulla stazione dovevano spaziale partire da Baikonur, giusto? Sì, dovevano partire da Baikonur, è l'unico vettore disponibile, era il Soyuz. Quindi questi, mentre come si accennava anche prima, il rapporto, la tensione, diciamo, militare di ricerca e tecnologica con la Cina risale veramente a molto tempo fa, essendo lo spazio un tema di lunghissimo termine. Gli Stati Uniti hanno identificato la Cina come, diciamo, tra virgolette, avversario spaziale già da circa una trentina d'anni, quindi quella tensione che si era poi creata con la crisi di Tiananmen, per farla breve, negli anni 90 è rimasta molto rilevante nei confronti della Cina, e non esiste tecnicamente una possibilità di collaborazione tra Stati Uniti e Cina in quest'ambito, di collaborazione strutturata delle varie agenzie. E anche la NASA, rispetto alle capacità cinesi, spesso ha diciamo un doppio atteggiamento: da un lato alcune capacità cinesi vengono esaltate in ottica di cercare maggiori investimenti sullo spazio negli Stati Uniti, penso per esempio a quello che hanno fatto i cinesi nell'ambito lunare o delle comunicazioni quantistiche negli ultimi anni, mentre di recente, proprio in riferimento a Marte, l'amministratore della NASA ha rifiutato l'idea di una corsa su Marte, dicendo: noi alla nona volta che facciamo atterrare un robot su Marte non siamo in competizione con i cinesi, che è la prima volta che ci vanno. Però anche questo, non che ci provano, è che perché c'è stato un tentativo precedente che, come si ricordava prima, spesso non vanno a buon fine. Il tentativo precedente cinese non era andato a buon fine, e diciamo questi aspetti di militarizzazione soft o hard dello spazio probabilmente continueranno a stare con noi anche in un'era dopo Trump, probabilmente, anche se siamo abituati ovviamente a questo linguaggio più offensivo che Trump in particolare ha caricato, anche perché poi sia su Marte si annunciano ulteriori progetti relativamente anche a questa epoca commerciale in cui diciamo le aziende che vediamo impegnate degli Stati Uniti sicuramente non agiranno mai da sole, come non possono agire da sole, ma sempre anche attraverso una connessione con gli apparati militari statunitensi. Sarà comunque un'epoca complicata, perché gli investimenti necessari per l'impresa spaziale sono molto ingenti, e ci sono già stati piani, per esempio, da parte degli Stati Uniti per giungere su Marte in passato, in particolare nel 1989-1990 la NASA aveva già presentato delle opzioni per cui ci sarebbe stato addirittura nell'opzione precoce un primo equipaggio umano su Marte nel 2008. Spesso su queste cose poi agisce una tagliola dei finanziamenti e della difficoltà di trovare i soldi. Quindi una volta ci sono, una volta no. Esatto, ci sono queste due forze confliggenti: da un lato l'aspetto, tenendo presente l'infrastruttura scientifica e delle applicazioni della nostra vita, che è fondamentale, poi c'è la forza confliggente del prestigio e della competizione militare, per cui devi investire, e poi ci sono anche dei vincoli di bilancio che in alcune epoche si presentano rispetto ad altre scelte. E infine, Luca Perri, abbiamo un'ultima domanda, ce la facciamo senz'altro. A me viene sempre in mente, quando sento questi discorsi, mia nonna morì poi centenaria, insomma, che diceva: ma che ci si va a fare su Marte? È quello poi il punto, cioè, perché tutti, va bene il prestigio, va bene la ricerca, ma perché proprio Marte, e che ci si va a fare appunto là? Ma allora, su Marte in realtà c'è anche una questione culturale, diciamo. Noi abbiamo iniziato a pensare seriamente all'idea degli alieni pensando ai marziani, perché alla fine dell'Ottocento ci fu un errore di traduzione, tra l'altro da un articolo scientifico italiano in inglese, e questo articolo era stato scritto da Giovanni Virginio Schiaparelli, che era un grande astronomo italiano, e lui descrisse dei canali naturali su Marte, che poi tra l'altro non esistevano davvero, quelli che vedeva lui, ma questo è un altro discorso, e lui scrisse canali naturali, solo che nella traduzione invece che channels, che vuol dire canali naturali, fu utilizzato il termine canals, perché era più simile all'italiano canali, che però vuol dire canali artificiali. In realtà da lì nacque tutto quello che è poi il mito dei marziani, e quindi quando noi pensiamo alle ricerche di vita da qualche altra parte, Marte ci viene subito in mente, la fantascienza degli ultimi secoli, dell'ultimo secolo sostanzialmente ci porta sempre a pensare ai marziani, ma effettivamente Marte è il pianeta per noi più raggiungibile, più praticabile, perché anche Venere sarebbe raggiungibile ma ha delle condizioni terribili, e quindi Marte, andare verso Marte sarebbe nella nostra testa il passo successivo dell'umanità che esce dalla sua culla. La Terra è la culla, ma a un certo punto la culla bisogna abbandonarla e andare a esplorare ciò che c'è fuori. Detto questo, l'esplorazione spaziale è qualcosa che ci dà cultura, e quindi è la ricerca dell'uomo di cultura continua e di esplorazione, altrimenti non avremmo mai esplorato gli oceani alla ricerca di nuove terre emerse. Quindi ma è un grande capitolo che non possiamo affrontare, ma gli oceani forse anche lì c'è tantissimo, abbiamo cercato il 5% degli oceani, credo, abbiamo scandagliato, quindi è un abbiamo altro mappe ambito. Più precise di Marte che del fondale degli oceani. Precisamente. Grazie davvero a Luca Perri, astrofisico, Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politica e consigliere scientifico di Limes. Allora, ringraziamenti Miriam Lucchetti, Danilo Di Trani, Riccardo Poli, in regia Peter Bescapè, da Laura Bettini, appuntamento a domani mattina.